La storia e la memoria di Dino Pesole. All'inizio degli anni 60 del Novecento, in parallelo con il formarsi a livello politico dei primi governi di centro-sinistra e con il riesplodere sulla scena internazionale della Guerra Fredda, era l'epoca della crisi dei missili a Cuba, nasce in Italia una rivista destinata ad avere per 20 anni un ruolo centrale nel panorama culturale e politico, l'Astrolabio. A fondarla sono due personaggi del calibro di Ernesto Rossi e Ferruccio Parri, che trasferiscono così nella rivista l'esperienza del Partito d'Azione, con un fermo approccio antifascista, aperto all'analisi e l'interpretazione degli avvenimenti politici, sociali, culturali di quegli anni. A riproporci ora l'interessante itinerario della rivista L'Astrolabio è un libro appena pubblicato da EDS dal titolo Pagine scomode, la rivista Astrolabio 1963-1984, curato da Alfredo Casiglia. Negli oltre 20 anni della sua vita, dal 1963 al 1984, l'Astrolabio ha rappresentato un punto di riferimento per un'area dell'opinione pubblica riformista e del mondo politico in generale. Le sue pagine sono state veicolo di battaglie importanti, testimonianza di un impegno civile e politico erede della cultura azionista da cui sia Rossi che Parri provenivano. Allora, all'inizio degli anni 60, il nascente centro-sinistra aveva suscitato grandi aspettative, perché segnava una cesura con quasi un ventennio di politica centrista, dominata dalla Democrazia Cristiana. Il 3 marzo del 1962, Pietro Nenni annunciava alla Camera il voto di astensione dei socialisti nel corso del dibattito sulla fiducia al quarto governo Fanfani. Era l'inizio della svolta politica che un anno dopo avrebbe portato il PSI ad assumere dirette responsabilità di governo a fianco della DC, inaugurando così la stagione del centro-sinistra organico. Prendeva avvio un'esperienza politica per i tempi di grande novità che superava la lunga stagione dei governi centristi e puntava a inaugurare una nuova stagione all'insegna del riformismo. All'interno di questo nuovo clima politico, la rivista Astrolabio gioca, dicevamo poc'anzi, un ruolo molto importante. Ne parliamo con il curatore del libro Pagine scomode, Alfredo Casiglia, che salutiamo. Buonasera. Buonasera. Allora, ci racconti prima di tutto la sua esperienza diretta all'Astrolabio. Ma io mi sono occupato dell'Astrolabio nel secondo decennio della sua vita, perché nel 1970 la politica del giornale cambia radicalmente, nel senso che fino a quel momento la vecchia redazione dell'Astrolabio aveva condotto un giornale settimanale. In quel periodo il giornale aveva una cadenza settimanale, che negli ultimi anni di quel primo decennio aveva iniziato ad assumere connotati che a Parri garbavano poco, nel senso che si era fatto paladino di movimenti che allora vivacizzavano la vita politica, movimenti studenteschi e movimenti extraparlamentari. Quindi Parri, dopo aver tollerato per un certo periodo, perché era anche lui curioso, interessato, voleva capire cosa significassero questi movimenti, non ha tollerato più che una rivista però occupasse le sue pagine nella maggior parte su questi temi. E su questa questione nacque una questione con il vice direttore e con una parte della redazione. Certo. E uno dei motivi principali anche di questa rottura, diciamo, fu il lancio da parte di Ferruccio Parri del famoso appello per l'unità delle sinistre nel 1967, che poi darà vita a un gruppo parlamentare che si chiamerà Sinistra Indipendente. Ecco, anche questa scelta di Parri non fu condivisa appieno. e quindi anche questo causò il dissidio, diciamo. Il dissidio. Senta, ecco, lei è arrivato al 67 e non a caso c'è un capitolo del libro che riguarda eventi fondamentali nel nostro paese, come l'autunno caldo, la strategia della tensione. Siamo alla fine degli anni 60. Sì. Ecco, ma la rivista come interpreta, come legge, come aiuta a capire questi eventi? Ma la rivista, come al solito, indaga. Sì. Indaga attraverso inchieste, cioè un'inchiesta, ci sono delle inchieste sul movimento studentesco che andrebbero rilette, dove ad essere interrogati in queste inchieste sono gli stessi protagonisti. Lo stesso Astrolabio pubblicherà documenti della contestazione studentesca, proprio perché ha interesse ad approfondire la ragione, gli stimoli che da questo movimento venivano. Non dimentichiamo che questa stagione di movimenti, che poi avrà anche un seguito nel mondo del lavoro, perché ci saranno poi le manifestazioni degli operai, dei lavoratori, e che porteranno, però sembra quasi contraddittorio che questo grande movimento poi porti sul piano politico delle riforme, perché in realtà quando si tratta di approvare lo statuto dei lavoratori si tratta di una vera e propria riforma, quando si tratta di approvare le leggi sul referendum e le leggi sulle regioni si tratta di riforme. Ecco, la stranezza di questo periodo è che questi movimenti che sembravano dover rompere in realtà poi sollecitano la politica a prendere delle decisioni importanti. Non dimentichiamo che poi a seguire ci sono delle grandi battaglie civili, come quella per il divorzio, per il riconoscimento dell'interruzione della maternità. Insomma, ci sono tanti fenomeni che la rivista segue diligentemente, li segue attraverso meccanismi che sono tipici del giornalismo, attraverso l'inchiesta, attraverso l'intervista, attraverso servizi speciali che si ritrovano tutti nella rivista. Ecco, nel 72 lei scrive nel suo saggio: la rivista diventa mensile. Sì. E mantiene quella periodicità per 4 anni. Sì. Ecco, poi cosa accade fino all'84, perché ricordiamolo, la rivista ha una vita di circa 20 anni, nasce nel 63, no? E chiude nell'84. Come si arriva a questa parte, come dire, conclusiva dell'esperienza dell'Astrolabio? Ma questa seconda parte, dopo la trasformazione in mensile, diciamo che è stata una forzatura dovuta anche alle particolari condizioni finanziarie, economiche, certo, che non consentivano più la periodicità nemmeno quindicinale. Parri, nel frattempo, che ne era stato l'animatore, il direttore, cominciava ad avere veramente degli anni pesanti, certo, e si avviava al tramonto, quindi la direzione di Parri cominciava ad allentarsi e il giornale subiva le trasformazioni dell'epoca, perché nel frattempo il centro-sinistra aveva perso la sua presa, si era sdoganato in un certo senso la sinistra, e infatti l'appello dell'Unità delle Sinistre del 67 già rappresenta un primo passo verso lo sdoganamento del peso elettorale del Partito Comunista. Mm-hmm. Ci sarà. Questo è stato facilitato in un certo senso anche, detto per inciso, dalla forte amicizia che c'era tra Longo e Parri. Sì. Longo era segretario del Partito Comunista, che entrambi nella resistenza avevano facilitato l'unità delle forze politiche di varia provenienza nella resistenza al nazismo. E quindi questo facilitò l'avvicinamento e l'apertura verso i comunisti. Ricordiamoci che in questo periodo, in quest'arco di tempo, è lo scenario che ne viene fuori dal contributo che ha scritto Carlo Pinzani e che è l'apertura del libro, fa capire come il contestuale peso politico della Democrazia Cristiana, la resistenza che la Democrazia Cristiana opponeva alle riforme, a quei tempi, storicizziamo tutto, certo. E gli interventi esterni, soprattutto degli Stati Uniti, che ovviamente per la politica di quel tempo non vedevano di buon occhio l'ingresso della sinistra in generale, ma del Partito Comunista in particolare, nel governo del paese. La tesi che porta avanti Carlo Pinzani è quello che l'Italia in realtà era una marca di frontiera degli Stati Uniti. Bene. Veniva trattata come tale. Grazie, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringraziamo molto. Alfredo Casiglia è stato per anni collaboratore di Ferruccio Parri ed editore dell'Astrolabio, ci ha aiutato a ripercorrere la storia di questa rivista Pagine Scomode, pubblicato dai DS. Buonasera e grazie. Grazie a lei.